Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, un'edizione di Europa 24 che in realtà è un'edizione d'attesa, perché due grandi temi, come sapete, quello della Brexit su tutto, ma anche diciamo limature messe a punto sul fronte dell'immigrazione, lavori in corso. Dunque, le ultime ci dicono che il presidente francese François Hollande e i primi ministri del Belgio Charles Michel e quello della Repubblica Ceca Sobotka si sono suddivisi la guida dei negoziati su tre diversi temi in discussione per raggiungere l'accordo con la Gran Bretagna. Secondo fonti europee, Hollande è il capofila per le questioni legate alla governance economica, incluso l'uniformità delle regole per le banche, le assicurazioni, gli istituti finanziari. Michel tratta invece per garantire che non sia minato il concetto di Ever Closer Union, su quale si fonda la costruzione dell'UE, e Sobotka le questioni legate al freno d'emergenza, al cosiddetto freno d'emergenza per l'accesso ai benefit del welfare britannico, che naturalmente pongono problemi per una destinazione che, va detto, è sempre tra le più ambite da cittadini dell'Unione Europea e extracomunitari. Comunque, da stamani è in corso una serie di bilaterali, la ripresa dei lavori collettivi con la sessione informale cui parteciperà anche il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz è slittata a non prima delle 14:30, quindi staremo a vedere, naturalmente vi aggiorneremo nel corso dei nostri notiziari. Martin Schulz, che peraltro proprio un'oretta fa sembrava ottimista, dice stiamo lavorando, è un lavoro complesso, ma insomma lasciava trapelare un atteggiamento positivo e costruttivo. Staremo a vedere. Intanto ancora una notizia prima di dedicarci invece allo sport, naturalmente con il nostro consueto appuntamento con tutti i convocati. L'altra notizia, vi dicevo, non è purtroppo buona. Infatti l'Italia è, per Eurostat, il paese d'Europa con il tasso più elevato di persone inattive. È quanto emerge dai dati di Eurostat diffusi oggi, relativi al terzo trimestre 2015. In Italia è inattivo il 41,6% dei disoccupati tra i 15 e i 74 anni, più del doppio della media europea e decisamente sopra tutti gli altri paesi. Il secondo tasso, pensate, il secondo tasso più elevato è quello della Finlandia, con il 34%, seguito da Lettonia e Olanda. Tra il secondo e il terzo trimestre 2015, in Europa, il 62% appunto delle persone rimaste disoccupate, mentre il 17,9% hanno trovato un'occupazione. In Italia è rimasto disoccupato il 44,2% delle persone, mentre il 14,3% del campione ha trovato occupazione. Insomma, in primo piano sempre la questione occupazionale, e come vi dicevo, nelle prossime edizioni di GR24 vi daremo aggiornamenti sulla trattativa sul fronte della Brexit. È tutto per questa edizione, naturalmente anche l'augurio di un buon fine settimana. Lunedì. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.